You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Il signor soprano? Sì. Sono Noah Tannenbaum. Senti, ma voi due, tu e Medo, state... Ancora non lo so. Da dove vieni, Nathan? Noah. Sono di Los Angeles, zona est. Oh, quello che intendo è... La mia famiglia lavora nel cinema, il famoso show business, lo chiamano così. E i film di Tarzan? No, no, mio padre fa l'avvocato dei divi. No, volevo dire che noi siamo di origine italiana. Ah, cioè, per questo mio padre è ebreo e mia madre è afroamericana. Tannenbaum, certo. Ma sul modulo dell'università non c'è scritto che sei ebreo. No, non sono messe domande di quel genere. Ah, certo, naturalmente. E che hai messo? Afroamericano. Quindi ci capiamo noi due, sei nudizzone. Mi scusi? Una carbonella, faccetta nera. Qual è il problema? Io penso che hai capito benissimo. La tua amichetta là sopra non ti ha fatto un gran regalo a portarti qua. Io non so che cazzo pensava. Poi ce lo dirà, eh? Vedi, tengo molti soci di colore, però non mandano le figlie con mio figlio e io non mando coi loro la mia. Vado a farsi fottere. È proprio quello che cerco di evitare, faccetta nera. Così quando mia figlia scende le scale, le dici che ti sono molto simpatico. Poi quando sarete uscite di casa, la lasci per sempre. That's the story of... That's the glory of love. Bentornati a Indovina chi viene a cena, e in questa trasmissione dove di solito ci occupiamo degli italiani di origine straniera, di italiani con radici altrove, non possiamo trascurare una fetta di italiani che magari ha radici in qualche altro paese, non perché appunto è emigrata in Italia o perché si è trovata in Italia da genitori stranieri, ma perché è stata adottata. Sono tantissimi gli italiani adottati da paesi esteri e di recente sono stati finalmente diffusi anche i dati della Commissione Adozioni Internazionali, e i dati dicono che le adozioni sono in calo. In Italia sono stati accolti 4.422 bambini tra il 2014 e il 2015. Per parlarne abbiamo con noi Paola Crestani, presidente del CAI. Benvenuta. Grazie, buonasera. Allora, CAI, che è uno degli enti più grandi in Italia che si occupa non solo ma soprattutto di adozioni internazionali, uno degli enti più grandi e più seri, possiamo dire, che si occupa di questo grande tema, importante tema e delicato tema. Paola, innanzitutto un commento da parte tua di questo rapporto che dice che le adozioni sono un po' in calo, no? Sì, sicuramente le adozioni sono un po' in calo. Intanto ci tengo a dire che CAI, al di là di tutti questi apprezzamenti, è sicuramente l'ente più vecchio, nel senso che sono quasi 50 anni, è stato fondato nel 68 che ci occupiamo di adozione, per cui abbiamo così una finestra sul mondo delle adozioni molto ampia. Negli ultimi anni le adozioni nel mondo e anche in Italia sono in calo. Questi dati, che ci tengo a ricordarlo, riguardano solo il 2014 e il 2015, quindi ci manca completamente il 2016, siamo già a maggio del 2017, ci dicono che in questi due anni ancora le adozioni sono calate. In realtà i dati del 2015 segnano un leggerissimo incremento delle adozioni, il famoso zero virgola, che però diciamo è un po' falsato dal fatto che nelle adozioni del 2015 sono stati inseriti tutti i bambini che sono arrivati dal Congo. Sono 140 bambini, se ricordate insomma tutta la vicenda dei bambini che sono rimasti bloccati per anni in Congo e sono arrivati quasi tutti nel 2016, ma siccome la Commissione Adozioni ha deciso di registrare i dati con le autorizzazioni all'ingresso, cioè quando la Commissione autorizza il bambino a entrare in Italia e non nel momento in cui arriva, tutti questi dati sono finiti nel 2015, per quello c'è un leggero incremento. Altrimenti continuerebbe il declino che da così indagini che sono state fatte anche per quanto riguarda il 2016, quindi non dati ufficiali, continua anche nel 2016. Ci tengo a dire che lo stesso problema, cioè delle numeri delle adozioni un po' così falsati dall'ingresso dei bambini del Congo, riguarda anche la Francia, che invece li ha messi nel 2016, e proprio per questo motivo in Francia le adozioni del 2016 sembrano aumentate. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa! È un lungo decennio di contrazione per le adozioni internazionali proprio a livello mondiale, una riduzione che tocca un po' tutti i paesi di accoglienza. E è un calo del 73% nell'arco di 10 anni mondiale, intendo, no? Perché siamo passati dai 45.000 nel 2004 ai 12.000 adottati nel 2015. Un trend quindi negativo che coinvolge un po' tutti i paesi. In Italia il calo è stato in 10 anni del 34%. Molto più pesante è il calo in altri paesi come gli Stati Uniti, che hanno visto un calo del 75%. In Spagna, Francia e Danimarca la diminuzione raggiunge e supera addirittura l'80%. Allora Paola, questo trend è un dato positivo o negativo? Cioè è da leggere come una minore richiesta dei bambini in difficoltà, di paesi che riescono ad avere magari adozioni interne, oppure una minore richiesta da parte dei genitori nei paesi di accoglienza? Diciamo che ci sono degli aspetti positivi e degli aspetti negativi, o meglio, delle motivazioni positive. In alcuni paesi effettivamente la situazione è migliorata, sia economica, sia dal punto di vista sociale, sia gli stati riescono a farsi carico in modo migliore della protezione dell'infanzia in difficoltà, e quindi la necessità di trovare una famiglia, dei bambini all'estero è diminuita. D'altro canto però ci sono anche dei motivi negativi, cioè in alcuni paesi sono state fatte, riguardo alle adozioni, delle vere e proprie porcherie, cioè si parla di malpratiche, adozioni illecite, scandali, e per questo motivo diversi paesi hanno chiuso all'adozione. Questo non significa che i bambini... Quindi anche una maggior consapevolezza da parte di questi paesi di queste opacità. Assolutamente sì, però forse non una altrettanto grande capacità di affrontare la situazione, nel senso che ci sono molti paesi che appunto hanno risolto chiudendo le adozioni, ma purtroppo rimangono comunque tanti bambini abbandonati nel paese. Quello che... vorrei sottolineare è che una delle cause delle diminuzioni delle adozioni è il fatto di fare cattive adozioni. Se le cose si fanno male, poi finisce che chi ci rimette sono i bambini che più ne hanno necessità. Quindi è fondamentale la responsabilità di tutti per fare delle adozioni veramente fatte bene, corrette, solo nei casi in cui le adozioni sono necessarie. Purtroppo in questi anni, anche perché molti ragazzi adottati sono ormai diventati adulti e sono tornati nei paesi di origine a cercare le proprie origini, si sono a volte imbattuti in situazioni riguardo alle loro adozioni di malpratiche. Questo ha portato la comunità internazionale a interrogarsi su questo e a prendere anche dei provvedimenti. Magari in questo modo ci rimettono anche tutte quelle persone, tutte quelle situazioni che davvero hanno necessità di un'adozione. Penso a casi che vengono segnalati a noi di bambini che sono veramente rifiutati, a volte gettati veramente nelle latrine, abbandonati. Insomma, in queste situazioni c'è davvero bisogno di trovare una famiglia. Ci sono altre situazioni che ci vengono segnalate e che sappiamo, dove invece l'abbandono viene sollecitato da qualcuno che ha interesse, anche economico, a diciamo mettere questi bambini in una sorta di mercato. Sul mercato, sì. Queste sono cose da combattere nel modo più assoluto. Ovviamente noi diciamo sul mercato non perché avalliamo questa pratica, no. Anzi, proprio per mettere allerta le persone, perché esiste purtroppo anche questa realtà. Come ci si può difendere? Ci saranno probabilmente dei genitori che vogliono adottare o potrebbero pensare di adottare all'ascolto, cosa possiamo consigliare? Possiamo consigliare sicuramente di informarsi molto bene. In Italia abbiamo un albo di enti autorizzati che dovrebbero tutti garantire delle procedure corrette e controllate da parte della nostra Commissione Adozioni Internazionali. Sappiamo in questi anni di polemiche che la stessa Commissione Adozioni ha messo in dubbio l'operato di alcuni enti autorizzati senza però prendere dei provvedimenti per questi, e quindi credo che in questo modo diventi molto più difficile per le famiglie riuscire a capire a chi rivolgersi e che garanzie avere. Informandosi, ormai le famiglie si parlano anche sui blog, si comunicano molte informazioni, questo può dare la possibilità di avere maggiori garanzie rispetto alle procedure di adozione. Quello che posso suggerire è di verificare sempre che l'ente con cui ci si mette in contatto sia il più trasparente possibile nelle comunicazioni, che partono anche solo dalle comunicazioni sul sito, il fatto che sul sito sia pubblicata la carta dei servizi, il bilancio, tutte le informazioni che riguardano non solo la procedura di adozione ma l'organizzazione in generale, sono delle garanzie appunto di trasparenza e correttezza. E poi verificare, andando avanti nell'iter, che a quanto viene detto, alle informazioni che vengono date, corrispondano dei comportamenti coerenti. Tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Abbiamo un minuto di pubblicità, ci fermiamo, ma torniamo con te fra pochissimo. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Risvegli. Pino. Vaffanculo tu, vaffanculo la pizza che fai e vaffanculo Frank Sinatra. Ah sì? Beh, vaffanculo anche tu e vaffanculo Michael Jackson. Ora basta! Tempo scaduto! Tempo scaduto! Datevi una bella calmata! Vi invito alla riflessione, fate sbollire la vostra rabbia! E di questo, fratelli, ne sono doppiamente sicuro, ve lo giuro! Siamo questa sera con Paola Crestani, presidente del CHAI, uno dei più importanti enti e degli storici enti italiani che si occupa di adozioni internazionali, per parlare appunto delle adozioni, adozioni nel mondo, adozioni in Italia, perché è un punto di vista importante quando parliamo, come nel nostro caso, di identità e migrazione. Sono persone italiane che però provengono, hanno le radici in un altro paese. Paola Crestani, ci stavi dicendo quali sono le misure che un aspirante genitore adottivo deve prendere per cautelarsi, perché dicevi gli enti accreditati presso la Commissione Adozioni Internazionali dovrebbero tutti garantire adozioni sicure, ma è necessario, come tu giustamente dicevi, informarsi prima di tutto, perché non è sempre così. perché la stessa CAI ha messo allerta, ma senza chiarire quali sono gli enti che hanno evidenziato delle opacità. Uno dei primi suggerimenti che ci davi era quello di frequentare i blog, ma non solo, di guardare il sito delle associazioni, e un discrimine può essere quello della trasparenza dell'ente, quindi la pubblicazione del bilancio, la pubblicazione dei dati di quello che fanno. Più sono trasparenti in generale tutti gli enti di questo tipo, più ci possono dare qualche garanzia. Stavi per aggiungere un altro fattore. Stavo per aggiungere il fattore costi, che è sempre determinante. Le adozioni purtroppo costano molto, perché tutti i costi dell'adozione internazionale ricadono sulle famiglie, non c'è nessun sostegno, nessun finanziamento da parte dello Stato. Oltretutto sono bloccati ancora al 2011 i rimborsi per le spese adottive che erano stati garantiti alle famiglie. Per quanto riguarda i costi, anche qui ogni ente dovrebbe pubblicare nella propria carta dei servizi i costi previsti per l'adozione internazionale, quindi è importante verificare che poi nei fatti a quanto è previsto corrisponda alla realtà. E specialmente un suggerimento che mi sento di dire, perché purtroppo frequentando tante famiglie arrivano anche voci di diverso tipo: non accettare mai di pagare dei costi che non hanno a che fare con la pratica di adozione. Voglio dire, nel momento in cui si fa una pratica di adozione, si fa quella e non si è tenuti a sostenere altre attività dell'ente. Che costi ci sono, e la garanzia di un costo alto garantisce di più? Allora, ci sono dei costi, noi li dividiamo solitamente tra costi della pratica in Italia, quindi tutto quello che serve per seguire la pratica in Italia, e costi all'estero. Ovviamente c'è una relazione tra la qualità del servizio professionale e il costo, ma non è detto che costi più alti corrispondano a adozioni migliori. Dobbiamo tenere conto però che, parlando specialmente dei costi estero, è importante riuscire a garantire un'assistenza continua all'estero alla famiglia quando c'è, ma anche degli stipendi alle persone che si occupano dell'adozione, che siano stipendi, cioè paghe fisse e non a cottimo, a pratica, perché questo potrebbe sollecitare, diciamo, pressioni che non vogliamo per quanto riguarda le adozioni. Dicendolo proprio in maniera brutale, potrebbe sollecitare l'utilizzo di facilitatori che cerchino dei bambini, no? Esatto, quindi dobbiamo tenere conto di questo. Quindi è bene che siano pagati gli operatori, che questo pagamento sia limpido e che sia chiaro. Esatto, sia corretto, che ci sia una sede all'estero, perché altrimenti è difficile riuscire a seguire la famiglia. Tutti questi costi arrivano poi a pesare sulla famiglia con il viaggio, la permanenza all'estero, quindi tutte le spese che la famiglia deve affrontare possono arrivare tra i 20 e i 30 mila euro. Quindi è un impegno veramente importante per la famiglia. Ci sono anche tempi sempre molto lunghi. Come mai, si chiedono le famiglie che si approcciano all'adozione, ci sono sempre questi tempi molto lunghi che per i bambini, soprattutto anche per gli aspiranti genitori, ma soprattutto per i bambini, cambiano in maniera definitiva il loro approccio a questi nuovi genitori? Io posso dirti che i tempi medi, per quanto ci riguarda, sono di circa 2 anni. Ci sono però delle situazioni molto più difficili, quindi delle adozioni che durano per molto più tempo. Ultimamente ci sono state diverse polemiche per le adozioni, specialmente in Etiopia ad esempio, perché molte famiglie erano state messe in attesa su quel paese senza avere però garanzie, no, di avere delle segnalazioni da parte del paese. Le adozioni in Etiopia sono diminuite perché il paese ha voluto porre una maggiore attenzione alle procedure di adozione dopo che c'erano stati diversi scandali. Non hanno voluto chiudere, hanno mantenuto aperto le adozioni, ma hanno inserito delle procedure molto più strette e molto più rigide per controllare le adozioni. Quindi da questo punto di vista è positivo. La burocrazia però, come sempre, non ha i tempi dei bambini, e quindi anche lì rimangono bambini che hanno necessità negli istituti. Riuscire a trovare un giusto equilibrio tra la necessità di correttezza e la necessità di dare risposta ai bambini, direi che è la sfida di ogni paese. Sempre più ormai da qualche anno, almeno da 5-6 anni, la Russia è il paese da cui arriva il maggior numero di minori in Italia. Segue la Polonia, poi la Cina, la Colombia, il Vietnam. Delle nazionalità diverse da quelle che io ricordo anche solo 5-6 anni fa, no? Sì, proprio perché la geografia delle adozioni dipende anche dalle scelte, dalle decisioni dei paesi. Indubbiamente la Russia ha avuto, non voglio dire un aumento perché il numero delle adozioni di fatto è un po' diminuito, ma comunque è diventato il paese principale anche perché l'Italia è uno dei principali o dei pochi paesi che ancora fa adozioni dalla Russia. Ricordo che la Russia, da quando alcuni paesi hanno introdotto la possibilità dell'adozione da parte di coppie omosessuali, ha interrotto le adozioni con questi paesi. Invece la Cina, che è salita moltissimo? La Cina, diciamo che è salita rispetto agli altri paesi, ad esempio l'Etiopia, che era uno dei paesi da cui proveniva il maggior numero di bambini, che hanno invece diminuito le quindi adozioni. È in proporzione, per questo è salita. Sì, esatto. E poi trovo il Vietnam, che mi ricordo qualche anno fa invece al centro di qualche scandalo. Il Vietnam anni fa è stato al centro di grandi scandali perché appunto c'erano state delle procedure scorrette anche da parte dell'Italia, così erano stati i titoli dei giornali. Ma nel frattempo ha ratificato la Convenzione dell'AIA, ha inserito delle nuove procedure e sono riprese le adozioni. Per quanto ci riguarda ancora manteniamo molta cautela per le adozioni dal Vietnam, che appunto comunque continuano. Ecco, questa convenzione dell'AIA sembra una formula astrusa, in realtà è una chiave di volta fondamentale per capire come orientarsi quando ci si vuole approcciare all'adozione, perché è una convenzione che viene firmata dai paesi con altri paesi che accolgono con paesi che danno in adozione e che dovrebbe essere uno standard minimo di etica, di accuratezza, è così? I paesi che hanno firmato la Convenzione dell'AIA hanno scelto di assoggettarsi a certe procedure che dovrebbero garantire adozioni corrette. Di questi paesi che abbiamo citato, la Russia, la Cina, quali hanno firmato e quali no la Convenzione dell'AIA? La Russia non ha firmato la Convenzione dell'AIA e devo dire la verità che il paese principale di adozioni per l'Italia sia un paese che non ha firmato la Convenzione dell'AIA, ecco, non è una cosa bellissima. Invece il Vietnam ha firmato la Convenzione dell'AIA, l'Etiopia no e nemmeno il Congo. Sicuramente la Convenzione dell'AIA dà maggiori sicurezze. Questo non vuol dire che adozioni fatte da altri paesi debbano essere necessariamente adozioni non corrette, anzi, e non voglio nemmeno dire che l'adozione nei paesi AIA sia sicura al 100%. Servono comunque delle cautele, serve comunque il controllo delle autorità centrali, nel nostro caso è la Commissione Adozioni, serve comunque la responsabilità dell'ente, non solo come ente, ma anche rispetto all'operato dei propri referenti all'estero. La Commissione Adozioni Internazionali è stata negli ultimi 2 anni al centro di una tormenta. Al momento chi è il presidente e che rapporti hanno gli enti con la Commissione? Sono rapporti più sereni? Allora, al momento il presidente per legge è il presidente del Consiglio, quindi il presidente Gentiloni. Non ha ancora dato deleghe, come è successo in passato, ad altri. È decaduto il mandato della vicepresidente Silvia Della Monica, che però continua nelle sue funzioni fino alla nomina del successore. I rapporti tra enti e commissione, intanto commissione è stato soltanto la vicepresidente o il presidente, perché la commissione adozioni, che è un organo collegiale, non si è mai riunita in questi anni. Gli enti hanno avuto l'ultimo incontro con la commissione adozioni, o meglio con la allora presidente e contemporaneamente vicepresidente Silvia Della Monica, nel dicembre del 2014, e questa è la situazione che permane da allora. Noi parliamo in questa trasmissione di identità, di migrazione e di identità. Nei bambini che arrivano da altri paesi, soprattutto quelli non piccoli, quelli insomma che hanno già 6, 7, 8 anni, c'è un conflitto fra l'identità originaria e l'identità poi della loro crescita in Italia? C'è un senso di sradicamento, e come si riesce a superarlo, anche per dare un'indicazione ai genitori? Sì, il tema dell'identità è un tema centrale per i bambini, i ragazzi adottati. C'è la necessità di mettere insieme i pezzi della propria vita e anche le diverse appartenenze, magari sentirsi contemporaneamente africano e indiano, o italiano, oppure indiano e italiano. L'obiettivo è proprio riuscire a fare convivere questi due aspetti della loro personalità, della loro identità, senza necessariamente annullarne uno dei due, perché il fatto di avere radici da una parte e poi vita dall'altra deve arrivare a essere una ricchezza. Per chiudere, Paola, visto che sei anche un genitore adottivo, è un percorso, per dare anche un po' di fiducia a chi volesse approcciarsi, non vogliamo solo spaventarli, è un percorso affascinante, arricchente. Ce lo puoi confermare? È un percorso meraviglioso, di grandissima soddisfazione per quanto riguarda i genitori, ma è anche un percorso felice per quanto riguarda i figli. Io che ho occasione, come tanti altri operatori, di vedere questi bambini prima di arrivare in Italia, quindi nella situazione di abbandono in cui sono, prima di trovare loro una famiglia, e magari li vedo dopo anni, quando sono inseriti in famiglia, quando così hanno fatto la loro vita, penso davvero che sia l'adozione uno strumento meraviglioso per proteggere, per tutelare, per garantire un futuro ai bambini che non hanno una famiglia. Grazie a Paola Crestani per essere stata con noi, buona serata. Grazie a voi, buonasera. Grazie a tutti, buona serata da Valentina Furlanetto. You've got to give a little, that's the glory of love.